Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Vertice sulla sicurezza e nella prefettura di Gorizia in preparazione dell'evento inaugurale di Gorizia Nova Gorizia, capitale europea della cultura, un appuntamento in programma fra 3 settimane, l'8 febbraio. Secondo l'ultimo report dell'agenzia Frontex cala il numero di passaggi di migranti irregolari attraverso la rotta balcanica, si tratta in prevalenza di afghani, turchi di etnia curda e siriani, è la conferma di una tendenza emersa già da diversi mesi. La scorsa notte si è sollevato il manto stradale in via Pascoli a Trieste, causato dalla rottura di una condotta idrica. I vigili del fuoco intervenuti per limitare chiusa al traffico un tratto della via, bloccata l'erogazione dell'acqua. Prende il via a Pordenone il terzo appuntamento del nuovo ciclo di esposizioni dedicate agli artisti contemporanei in occasione della candidatura della città a capitale italiana della cultura 2027. Sono 2 gli istituti in regione che hanno attivato la sezione Rondine, un metodo didattico che pone l'accento sulla relazione docente-studente e permette ai giovani di acquisire strumenti sia per il liceo Percoto di Udine e l'Istituto Carducci Dante di Trieste che abbiamo visitato. Il progetto Friuli Venezia Giulia, comunità digitale promosso con fondi PNRR dall'amministrazione regionale, sta creando una rete di sportelli di assistenza gratuita sul territorio per aiutare i cittadini ad accedere ai servizi digitali. Questa sera sarà Pasiano di Pordenone, Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino, per parlare di mafie e di lotta alla criminalità. Obiettivo: sottolineare l'importanza di cultura e istruzione per contrastare le mafie e il loro inserimento nel tessuto sociale. Basket a 2, grande attesa per il derby regionale in programma questa sera al Pala Carnera tra l'APU Udine e la Gesteco Cividale, valido per la seconda giornata del girone di ritorno, con entrambe le squadre che attraversano un ottimo periodo di forma. Le 12:32 minuti e 30 secondi, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Beaz e da Francesca Terranova a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 15 gennaio. In apertura parliamo quindi del vertice sulla sicurezza nella prefettura di Gorizia in preparazione all'evento inaugurale di Gorizia Nova Gorizia, capitale europea della cultura, appuntamento in programma fra 3 settimane, esattamente l'8 febbraio. Manca meno di un mese all'inaugurazione di Go 2025. L'8 febbraio la capitale europea della cultura accoglierà personalità di spicco, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente slovena Natasha Pirc-Musar. Il momento culminante sarà la cerimonia solenne in piazza della Transalpina nel pomeriggio, simbolo dell'unione tra Gorizia e Nova Gorizia. Già in mattinata però è previsto un corteo transfrontaliero con partenza dalla stazione di Gorizia. Le misure di sicurezza sono state al centro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato in prefettura. La scorsa settimana si è tenuto un primo incontro per definire le azioni di prevenzione e controllo del territorio con la partecipazione delle forze dell'ordine, della protezione civile e del comune rappresentato dal sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Il vertice odierno ha coinvolto anche gli interlocutori sloveni, tra cui il sindaco di Nova Gorizia, Samo Turel. Sono state 2 le riunioni presiedute dal prefetto Ester Ferrullo, la prima riservata alle forze dell'ordine slovene, la seconda estesa ad altre componenti organizzative dell'evento che si svolgerà nelle immediate vicinanze del confine. Durante gli incontri sono state illustrate ed esaminate le misure di sicurezza necessarie per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, inclusi i presidi sanitari, la gestione dei flussi degli spettatori e le limitazioni al traffico. Le questioni tecniche più specifiche saranno gestite da organi competenti come la Questura e il Comune. Gorizia, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Secondo l'ultimo report dell'agenzia Frontex, cala il numero di passaggi di migranti irregolari attraverso la rotta balcanica. Si tratta in prevalenza di afghani, turchi di etnia curda e siriani. È la conferma di una tendenza emersa già da diversi mesi. Cerchiamo di scoprirne le cause nel servizio. Un calo sulla rotta balcanica è percepito anche dalle organizzazioni che sul territorio, ad esempio in Bosnia e qui a Trieste, si occupano di migranti, ma il dato del crollo del 78% dei transiti dichiarato nel suo report 2024 da Frontex, l'agenzia europea che si occupa di controllo dei confini, lascia scettici. L'ICS, il Consorzio Internazionale di Solidarietà di Trieste, ad esempio, riflette sul fatto che nessuna fonte internazionale segnala una reale diminuzione delle partenze dalle principali aree di origine dei rifugiati. Al contrario, in alcune regioni come l'Afghanistan, la situazione è in peggioramento. E poi c'è il dato dell'aumento degli arrivi in Grecia, paese di ingresso geografico della rotta. Secondo ICS, come evidenziato dall'Osservatorio Triestino, le reti di trafficanti sono sempre più strutturate. La stessa cosa afferma Silvia Maraone dell'Istituto Pace, Sviluppo e Innovazione, una ONG delle ACLI, in collegamento da Biac, in Bosnia. Ecco la sua lettura del fenomeno. La nostra percezione qua in Bosnia Erzegovina, ma vale anche per gli altri paesi interessati dal flusso, è che i migranti si vedano meno, perché intanto si muovono di meno a piedi, e questo vuol dire che fondamentalmente i trafficanti hanno organizzato dei trasporti con furgoni nei bagagli delle auto, che sono chiaramente più difficilmente intercettabili, e offrono anche non solo il trasporto ma un'accoglienza nelle cosiddette case di cittadini che chiaramente per profitto nascondono le persone. Quindi il transito anche nei paesi è molto più veloce, quindi non abbiamo più persone ferme per mesi, ma persone che in 3-5 giorni attraversano per esempio l'intera Bosnia Erzegovina. Oltre a quella balcanica sappiamo che ci sono le altre rotte verso l'Europa, e quindi ci sono le diversificazioni dei cosiddetti pacchetti di viaggio. I tentativi non sono più massicci solamente attraverso un confine, ma si dispiegano lungo tutte le frontiere. Sono meno le intercettazioni, ma non significa una diminuzione dei passaggi. Questi dati dovrebbero quindi essere rapportati a quelle che sono poi le domande d'asilo nei vari stati europei, e solamente quello ci darà la fotografia reale della situazione. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 5 di questa mattina si è sollevato il manto stradale di via Pascoli a Trieste a causa della rottura di una condotta idrica. I vigili del fuoco sono intervenuti per limitare i danni. La polizia locale ha chiuso al traffico la via nel tratto fra via Piccardi e via Rossetti. A Cegas APS AMGA procede con gli scavi e ha bloccato temporaneamente l'erogazione dell'acqua a 40 utenze. Hanno predisposto una fontanella all'incrocio fra via Pascoli e via Canova. I lavori e la conseguente chiusura stradale continueranno per tutta la giornata. Entro sera gli utenti riavranno l'acqua, assicura Acegas APS AMGA. La giunta regionale ha approvato una delibera che stanzia 42 milioni di euro per l'attività di contenimento e recupero dei tempi e delle liste d'attesa. A dare notizia l'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi: se al 31 dicembre 2025 le aziende non avranno utilizzato tutti i fondi messi a disposizione, dovranno accantonarli in bilancio per la stessa finalità. Nel dettaglio, il finanziamento aggiuntivo e ulteriore per il recupero e la riduzione delle liste d'attesa, pari a 30 milioni di euro, sarà ripartito fra gli enti del sistema sanitario regionale. Il 2025 è l'anno del giubileo della speranza, indetto da Papa Francesco, che ha già richiamato a Roma migliaia di pellegrini in occasione della cerimonia di apertura della Porta Santa in San Pietro e delle celebrazioni eucaristiche nelle altre basiliche della capitale. Anche gli allevatori italiani e friulani si apprestano a partecipare a un evento dal forte significato religioso e storico, in un'epoca in cui il mondo è scosso da numerosi e forti conflitti e tensioni. E l'occasione sarà rappresentata proprio dalla 18ª giornata dell'allevatore, che l'Associazione Italiana Allevatori organizza con la collaborazione delle associate territoriali, Friuli Venezia Giulia compreso, che sarà presente con una ventina di allevatori guidati dal presidente Renzo Livoni e dal direttore Andrea Lugo nella mattinata di venerdì 17 gennaio, per una delle ricorrenze più sentite degli allevatori italiani, che tradizionalmente celebrano in questa data Sant'Antonio Abate, patrono di uomini e animali. Prende il via a Pordenone il terzo appuntamento del nuovo ciclo di esposizioni dedicate agli artisti contemporanei in occasione della candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura 2027. Dopo le mostre in Galleria Bertoia dedicate ai maestri della fotografia Italo Zanier e Bruno Barbé, prende avvio il terzo appuntamento della stagione fotografica sul Guardare, con un nuovo ciclo di esposizioni dedicate agli artisti contemporanei, in programma al Museo Civico d'Arte Palazzo Richieri di Pordenone da sabato 18 gennaio. Tre gli autori che si susseguiranno fino al 4 maggio: Max Rommel, Michele Tagliariol e Paola Pasquaretta. Il curatore Marco Minuz. Ognuno di questi artisti esporrà una selezione delle proprie opere Ognuno di loro ha un background nazionale e internazionale e per l'occasione verrà realizzata un'opera pensata appunto per questo spazio. Si parte con l'esposizione Sotto il Sasso di Max Rommel. Per tutto il mese di marzo sarà invece protagonista Michele Tagliariol, entrambi di origini pordenonesi. L'artista Michele Tagliariol. Per questa mostra presenterò un lavoro diciamo inedito rispetto alla mia ricerca, perché saranno una serie di castelli di sabbia e sono una serie fotografica che ho iniziato ormai dal 2016. Dal 5 aprile al 4 maggio sarà il turno dell'artista marchigiana, friulana d'adozione, Paola Pasquaretta. Sentiamola. Porterò delle fotografie come anche gli altri artisti, ma il mio lavoro si concentra soprattutto sull'unione tra la fotografia ed altri mezzi espressivi come per esempio la scultura, quindi saranno una sorta di installazioni. La rassegna è promossa dal Comune e organizzata dall'Associazione Suases e Lancia, Pordenone, Capitale Italiana della Cultura 2027. Entro il 31 gennaio saranno decretate le 10 città finaliste. Il vice sindaco reggente del Comune di Pordenone, Alberto Parigi. Cosa significa questa partita per questa città e il suo territorio? Significherebbe, per così dire, un riconoscimento della grande vitalità culturale pordenonese, significherebbe accendere riflettori su una città che merita un palcoscenico nazionale. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 12.41 minuti diamo uno sguardo alla situazione meteo, il cielo è variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 11 a Trieste 9 gradi, a Gorizia 8 gradi e 5 decimi, a Udine 6 gradi, a Pordenone 1 grado e 5 decimi, a Forlì di Sopra 5 gradi e mezzo, a Piancavallo 4 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 3 gradi, a Tarvisio meno 2, a Sappada meno 4. Sul Monte Zoncolan 1 grado, su Lussari meno 1 grado e 5 decimi. Passando la costa, a Lignano 4 gradi e mezzo, a Grado 5 gradi. Le previsioni oggi pomeriggio e in serata cielo variabile. Domani cielo sereno o poco nuvoloso. Nel Tarvisiano maggiore nuvolosità. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, sostenuta nella zona di Trieste. Sono due gli istituti in regione che hanno attivato la sezione rondine, un metodo didattico che pone l'accento sulla relazione docente-studente e permettere così ai giovani di acquisire strumenti adatti. Il liceo Percotto di Udine e l'istituto Carducci Dante di Trieste che abbiamo visitato. Imparare la risoluzione dei conflitti al liceo, cominciando dalle beghe fra compagni di classe fino alla realtà disumana della guerra. Nella sezione rondine dell'Istituto Carducci Dante di Trieste si sta facendo proprio questo, grazie a un metodo innovativo sperimentato da 25 anni nella cittadella della pace a Rondine, vicino ad Arezzo, che prevede una formazione specifica degli insegnanti. Gabriele Donato, professore di storia e filosofia. Solitamente scegliamo all'inizio dell'anno alcuni sostantivi cruciali, tre, e possono essere dialogo, relazione, conflitto, empatia, e su questi tre sostantivi chiediamo ai docenti di proporre con una certa regolarità riflessioni multidisciplinari, chiediamo ai ragazzi di convergere con riflessioni di approfondimento. Siamo convinti socraticamente che il dialogo è lo strumento migliore per educare e per educarci, e quindi cerchiamo di creare le condizioni affinché si possa discutere, dibattere, affinché nelle classi possano emergere i punti di vista divergenti senza timore, ma con la serenità di farne motivi di arricchimento. Il percorso prevede anche un'esperienza da vivere direttamente a Rondine. Mi è stato donato molto, con fiducia. Siamo riusciti a creare delle relazioni in cui si andava oltre a tutta la magari diversità che c'era, perché tutte le persone che ho conosciuto magari venivano da realtà diverse dalla mia. Un'esperienza condivisa poi con i compagni di classe che si trovano un pomeriggio a settimana per riflettere con un docente su se stessi, sul loro futuro, ma soprattutto sulle relazioni. Quando li mettiamo nelle condizioni di discutere, impariamo ad apprezzare gli spunti che a volte nella routine scolastica rischiano di rimanere un po' sotto traccia, e il piacere di questo confronto costruito sulla fiducia nei confronti dei ragazzi è veramente un carburante eccezionale per il nostro lavoro. Trieste, Vaciuti, GR Friuli Venezia Giulia. Il progetto Friuli Venezia Giulia Comunità Digitale, promosso con fondi PNRR dall'amministrazione regionale, sta creando una rete di sportelli di assistenza gratuita sul territorio per aiutare i cittadini ad accedere ai servizi digitali. Per la Bassa Friulana e l'Isontino gli sportelli sono gestiti dall'associazione Grado Noi. Sono 11 i comuni che hanno stipulato il protocollo d'intesa con Grado Noi per lo sportello digitale e precisamente Cervignano, Fiumicello Villa Vicentina, Latisana, Marano Lagunare, Palmanova, Ronchi dei Legionari, Turriaco, San Canzian d'Isonzo, Terzo d'Aquileia, San Giorgio di Nogaro e Grado. La finalità è di assistere gli utenti, previa prenotazione, nell'approccio ai servizi digitali pubblici e privati, anche per necessità occasionali o specifiche come l'uso dello SPID, della carta d'identità elettronica, richieste di carta famiglia e dote scuola per i libri di testo, poi ovviamente tutta la parte sanitaria attraverso il portale Sesamo, ma anche i servizi digitali privati come l'home banking, l'acquisto di beni e servizi online e la gestione della posta elettronica. Liana Benedetti, presidente di Grado Noi. C'è una grossa difficoltà da parte di una buona fetta di popolazione a fare questi accessi in proprio senza un aiuto, senza un affiancamento, soprattutto oltre una certa fascia di età. Per cui noi facciamo sì questo aiuto allo sportello, però ci capitano anche certi casi di persone invalide o con gravi problemi di deambulazione per i quali facciamo anche dei servizi a domicilio. Poi lo smartphone ha mille possibilità, però dobbiamo saperlo usare. Noi facciamo anche dei mini corsi sull'utilizzo pratico dello smartphone per attivare la tessera benzina agevolata e anche per l'utilizzo dei sistemi Pago PA proprio con lo smartphone. Sentiamo ora qualche impressione tra gli utenti. Non sapevo che tramite questo sportello si poteva accedere al fascicolo sanitario, alle visite che ho fatto, alle ricette mediche e prenotare le visite tramite Sesamo. Una cosa che ho imparato è che si può accedere al sito dell'INPS e verificare il cedolino della pensione. Grado, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. La speranza fonte di vita, è questo il titolo dell'incontro in programma oggi a Udine, dove si susseguiranno interventi di esponenti della religione cristiana, ebraica e islamica. Si inizia con l'arcivescovo di Udine Riccardo Lamba, a seguire il rabbino della sinagoga di Trieste Meloni, poi toccherà Don Santi Grasso dell'arcidiocesi di Gorizia e si chiuderà con Omar Akkad della moschea di Udine per parlare della speranza nel Corano. Appuntamento alle 18 al Centro Culturale Paolino di Aquileia in via Treppo. Un evento della nostra regione per parlare di mafie e di lotta alla criminalità organizzata. Questa sera sarà presente Fiammetta Borsellino, figlia di Paolo, il magistrato vittima di Cosa Nostra, ucciso nella strage di Via D'Amelio nel 1992. L'obiettivo della serata è sottolineare l'importanza di cultura e istruzione per contrastare le mafie e il loro inserimento nel tessuto sociale. L'evento è organizzato dall'associazione Taracos per la seconda edizione del festival Riflessere, festival della legalità. Inizio alle 20:45 al Teatro Gozzi di Pasiano di Pordenone. L'intervista alla presidente dell'associazione Morena Caser. Questa sera avremo appunto con noi la dottoressa Fiammetta Borsellino. L'abbiamo invitata all'interno di Riflessere, festival della legalità, un festival che organizziamo, questa è la seconda edizione. Abbiamo invitato proprio lei perché sicuramente pensiamo, insomma, che sia fondamentale riaffermare ogni giorno i valori che Paolo Borsellino ha rappresentato fino all'ultimo istante della sua vita e quindi chi meglio di sua figlia. Perché proprio Pasiano di Pordenone? La nostra associazione ha sede a Pasiano di Pordenone, poi il festival è comunque itinerante su 9 comuni. Voi sentite che comunque nel pordenonese la mafia c'è o comunque bisogna parlarne e perché? Certi temi sono abbastanza scomodi, quindi difficilmente se ne parla o non se ne parla abbastanza e quindi è importante continuare a parlarne. Questa associazione Taracos che lei presiede si occupa di antimafia o anche di altri temi? Il nostro concetto di legalità, perché si chiama appunto Riflessere Festival della Legalità. Secondo noi legalità non significa solo rispettare la legge, significa tantissime cose, significa innanzitutto promuovere il pieno sviluppo della persona, significa rispettare se stessi, gli altri, il mondo, significa dare la possibilità a tutti di formarsi, di sviluppare un pensiero critico. Quindi le tematiche che noi affrontiamo durante il festival sono variegate, di scienza, poi altre di cultura dell'affettività, della non violenza, di diritti umani. Riccardo Novacco è stato eletto presidente dell'Automobile Club Trieste fino al 2027. Triestino di nascita, Novacco porta con sé un ricco bagaglio di esperienze come imprenditore nel settore commerciale, marketing e comunicazione, oltre a una consolidata carriera in qualità di presidente di numerosi enti pubblici economici. Basket a due, grande attesa per il derby regionale in programma questa sera al Pala Carnera tra l'APU Udine e Gesteco Cividale, valido per la seconda giornata del girone di ritorno con entrambe le squadre che attraversano un ottimo periodo di forma che le hanno portate rispettivamente al secondo e quarto posto in classifica. Inizio alle 20:30. Un derby che vale più di due punti. Al Carnera alle 20:30 Udine e Cividale cercano conferme. Il primato in regione dopo il derby vinto ai Ducali d'andata, ma una classifica che dice più due per i bianconeri. L'APU è la squadra più in forma del torneo. In casa non ha mai perso, dominando le avversarie con oltre 86 punti segnati a incontro rispetto ai 72 subiti. Quando ha tirato sopra il 34% da tre non ha praticamente mai rischiato e con difese tiro da fuori, anche dal nuovo arrivato Pullazzi, cercherà di indirizzare il match contro la banda di Pilastrini, che dopo un inizio di stagione ben sopra l'aspettativa ha vissuto una flessione costata tre sconfitte consecutive da cui si è pienamente ripresa nonostante la pesantissima assenza di Miani, ancora KO per un'ernia del disco. Merito non solo di un ritrovato redivo ma anche dell'esplosione di Francesco Ferrari, il 19enne destinato a ben altri palcoscenici e forse l'unica novità di un campionato di veterani. Per il commentatore tecnico di Rai Sport, Sandro De Pol, entrambi tra le stelle a cui fare attenzione in questo match. Penso che per Cividale il sindaco redivo possa essere uno dei protagonisti, come anche Ferrari, che sta facendo uno scorcio di stagione veramente impressionante. I miglioramenti sono palpabili, sono sotto l'occhio di tutti di partita in partita. Dall'altra parte ho visto un Darossi in grande spolvero ultimamente e poi molto passerà dalle mani di Ali Begovic e di Ichi. Proprio da Ichi dipenderà il ritmo della partita. Il playmaker americano è capace di accelerazioni che spaccano la difesa, anche se Cividale è una squadra che non molla mai. Tra le due società e anche tra i giocatori non corre buon sangue e le stesse tifoserie iniziano a malsopportarsi. L'augurio è che sia la solita festa del basket regionale, anche se la posta in gioco questa volta è alta. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Volley in Serie 1 femminile, difficile impegno casalingo per le ragazze della Cidia Talma Sons che affronteranno questa sera la formazione di Scandicci, attualmente seconda in classifica sul parquet di Latisana, con inizio alle 20:30. Pallanuoto, dopo la pausa invernale, oggi la squadra maschile della Pallanuoto Trieste tornerà in acqua per affrontare in Sicilia l'Ortigia Siracusa, match valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A1 alla piscina comunale di Catania. Fischio d'inizio alle 15. Due seminari per parlare dei rischi per il territorio regionale e non solo legati all'innalzamento del livello del mare. Il primo in programma oggi a Trieste, lo studio Tommaseo in via del Monte, si intitola Percepire l'impensabile, inizia alle 17, raccoglie i risultati di un progetto di ricerca coordinato da Ludovico Centis, ricercatore in urbanistica a Trieste, che esplora l'idea di un riassetto territoriale coinvolgendo diverse discipline come arte, scienza e comunicazione. A Centis abbiamo chiesto cosa significhi oggi il concetto di impensabile. L'impensabile è un concetto che deriva in particolare dalla teoria degli scenari, dallo studioso e stratega militare Hermann Kahn, che negli anni 60 sviluppò la teoria degli scenari, in particolare nel contesto della guerra fredda e lo scenario purtroppo ancora molto attuale di una possibile guerra nucleare. Man mano l'impensabile si è esteso ad altre dimensioni della nostra vita ed in particolare una che sempre più negli ultimi decenni ha preso rilevanza e della quale acquisiamo consapevolezza sempre più ogni giorno, che riguarda il cambiamento climatico e gli effetti che questo ha sulle nostre vite e nell'ambiente che viviamo. E quindi questo progetto intende considerare l'impensabile, quindi dal punto di vista dello spazio, e sotto il profilo della percezione visuale delle aree destinate a essere oggetto dell'innalzamento del livello del mare. Il progetto in qualche modo pone l'attenzione sul contesto geografico, il lato adriatico tra il Golfo di Trieste e la Laguna di Venezia, che è interessato alla previsione di sostanziale innalzamento del livello medio del mare. Nella peggiore delle previsioni fornite dall'IPCC già alla fine di questo secolo, che mettono potenzialmente a repentaglio beni culturali e ambientali di commensurabile valore, nonché ingenti patrimoni anche immobiliari. E quindi in qualche modo si pone la questione non solo di un possibile riassetto territoriale, quindi immaginando anche un possibile arretramento di diversi ambiti urbani, turistici, costieri, ma anche della potenziale scomparsa di tracce culturali, fisiche e materiali stratificateci nei millenni. Una prima attività che stiamo svolgendo è la documentazione fotografica di alcuni paesaggi e contesti di grande valore culturale, come Aquileia ad esempio, e anche poi lo sviluppo di mappature che in qualche modo mettono in evidenza quelli che sono gli impatti dell'innalzamento del livello del mare e gli altri fenomeni legati al cambiamento climatico, in particolare sulle facce costiere dell'Adriatico della regione Friuli Venezia Giulia. Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste, al Rossetti, arriva lo spettacolo The Reunion, West End and Broadway Musical Stars in Concert, con Ramin Karimloo, celebre interprete del Fantasma dell'Opera, che insieme ad altri cantanti sarà accompagnato dalla FVG Orchestra, diretta da Beatrice Venezzi. Dopo la tappa di Milano, questa è la seconda volta che lo spettacolo viene presentato in Europa. In repertorio brani tratti da vari musical di Broadway come Frozen, Wicked, fino a The Greatest Showman. Appuntamento alle ore 20:30 al Politeama Rossetti. E sarà inaugurata oggi a Trieste la mostra There di Elisa Mencagli Andersen a cura di Elena Cantori. L'esposizione, che utilizza sculture, audio, video e azioni partecipative, vuole indagare i temi del linguaggio verbale, del gesto e del significato, con le ripercussioni sul quotidiano di ciascuno. La mostra è un evento collaterale della 36ª edizione del Trieste Film Festival. Alla galleria E Contemporary dalle 18, apertura ogni giorno da domani dalle 17 alle 20. A Pordenone sarà presentato il libro La felicità è una lunga pazienza, con l'autrice Maria Teresa Cusumano, magistrato del Tribunale di Treviso, e il professor Paolo Venti. Il romanzo, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, racconta la resistenza degli internati militari italiani dopo l'8 settembre 1943. Alle 18 in Biblioteca Civica Sala Degan, in piazza 20 settembre. E alle 12:56 minuti e 30 secondi si chiude qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Francesca Terranova e Giorgio Beaz, che vi parla. Collaborazione tecnica di Mauro Cumin, ha collaborato in redazione Samantha Gon. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. A tutti l'augurio di una serena giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.